Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le trattative della Troica con il governo greco e le parole del ministro dell'economia italiano Vittorio Grilli, che ha detto che la Grecia si è salvata e si salverà. Il vertice dei paesi dell'Unione Europea, che si è aperto giovedì 18 ottobre a Bruxelles con le parole di Angela Merkel, François Hollande ed Herman Van Rompuy. Il conferimento del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. L'allentarsi della tensione in Europa dopo le parole di Mario Draghi dei giorni scorsi e il via libera al fondo Salva Stati. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Partiamo dalla Grecia. Martedì 16 ottobre un piccolo caso ha riportato tutte le attenzioni su Atene. La Troica ha improvvisamente interrotto i negoziati con il governo greco sul pacchetto di tagli al bilancio per il biennio 2013-2014. Lo hanno riferito radio locali, precisando che l'inviato del Fondo Monetario Internazionale, Paul Thompson, ha chiesto di voler parlare al telefono con la responsabile del fondo, Christine Lagarde. Le trattative sono poi riprese dopo una pausa di circa 30 minuti. Non è stato reso noto se Thompson abbia parlato o meno con la Lagarde. Sentiamo il racconto di Vittorio Darold del Sole 24 Ore al microfono di Sebastiano Barisoni. C'è stato un momento in cui la Troica e la situazione degli esperti, diciamo, Ministero del Lavoro greco e del Ministero delle Finanze, sembrava proprio che non riuscissero a trovare nessun accordo. Poi una telefonata del Fondo Monetario di Christine Lagarde sembra che abbia ripreso le trattative. Insomma, stanno facendo di tutto perché si arrivi al vertice del giovedì e di venerdì, quello appunto del Consiglio europeo straordinario, per avere probabilmente sul tavolo una buona notizia, quella appunto di aver trovato una soluzione per la Grecia. Si chiuderà con un accordo alla greca o greco, Vittorio Darold? Prego. Ma direi alla greca, nel senso che cercheranno di trovare un equilibrio tra il fatto che la Grecia naturalmente non può arrivare agli obiettivi di bilancio che è quello del 2020 con il 120% del debito, non è assolutamente fuori portata. Lo stesso Fondo Monetario lo ha ammesso nell'outlook, lo stesso capo economista del Fondo Monetario, Olivier Blanchard, ha detto: abbiamo sbagliato a calcolare gli effetti recessivi dell'austerity, non è dello 0,5% sul PIL, bensì dell'1%, e questo però ha portato, ahimè, a 5 anni di recessione. I poveri greci sono naturalmente adesso in grave difficoltà. Anche in Grecia il vero problema dell'austerity è che non è in qualche modo, non c'è un'uguaglianza, c'è un effetto paritetico, nel senso che c'è una grossa evasione fiscale, quindi non tutti pagano allo stesso modo i sacrifici che vengono poi richiesti, ed è questo forse l'elemento peggiore. Mi sembra di poter dire, Vittorio, che al di là della tattica, nessuno voglia arrivare con un caso greco al prossimo Consiglio europeo di giovedì. Assolutamente, cioè la Germania ormai ha scelto che si è rassegnata pure la Germania. Sì, la Grecia deve restare nell'euro, naturalmente al costo minore, naturalmente una Grecia che deve diventare tedesca, germanizzata, comunque devono diventare qualcosa di simile ai tedeschi, cosa che è assolutamente complicato, questo poi nel giro di pochi mesi, insomma, quindi la cosa è assolutamente difficile, ma ormai la scelta, diciamo, di fondo è stata fatta. La Germania non vuole andare al voto a settembre 2013 con una situazione di rottura sull'euro. Sono pronti a fare un trattato. Oggi Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha detto: ci vuole un commissario per l'euro, cioè ci vuole qualcuno che in sostanza possa andare, un super ispettore, possa andare nei vari paesi e dire: questo bilancio, prima che venga approvato, non funziona. Quindi addirittura una sorta di controllo preventivo. Giovedì 18 ottobre si è aperto a Bruxelles il vertice dei paesi dell'Unione Europea. Al centro dell'attenzione i temi della vigilanza bancaria e della creazione di un budget comune della zona euro, su cui il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy punta ad ottenere un mandato chiaro. Prima dell'apertura dei lavori, il premier Mario Monti ha avuto un incontro con il presidente francese François Hollande e ha fatto particolarmente discutere la relazione di Angela Merkel, ma sentiamo le parole della cancelliera tedesca in apertura dei lavori. In questo summit affronteremo il tema dello sviluppo dell'unione economico-monetaria. A questo appartiene anche la vigilanza bancaria. Il secondo tema sarà quello di un più stretto coordinamento politico ed economico, soprattutto nell'Eurozona. Terzo tema, la cooperazione di bilancio. Infine, la questione della legittimazione democratica. Oggi e domani non prenderemo decisioni, ma prepareremo le decisioni da prendere al vertice di dicembre. Tuttavia, occorre affrontare questi argomenti nel modo giusto. Per questo abbiamo molto da fare nelle prossime ore. Aber wir müssen die Weichen jetzt hier richtig stellen und deshalb werden wir gut zu tun haben. Quando l'Europa non avanza, a mio avviso torna indietro, lo ha detto il presidente francese François Hollande al suo arrivo al vertice di Bruxelles. Sentiamo. Nel mese di giugno abbiamo preso delle buone decisioni per l'Europa. Il compito di questo Consiglio europeo è applicare nell'interesse dell'Europa queste stesse decisioni. Ci sono proposte per rafforzare l'unione di bilancio, ne parleremo più avanti. Al momento l'ordine del giorno di questo summit è mettere in atto l'unione bancaria. Con la signora Merkel discuteremo certamente le prossime tappe, ma prima di prendere decisioni in merito dobbiamo concludere la tappa dell'unione bancaria. Gli spread stanno diminuendo in modo sostanziale in diversi paesi e in generale ci sono segnali incoraggianti, ma stiamo ancora soffrendo molto per la mancanza di crescita ed occupazione. Lo ha affermato sempre da Bruxelles il presidente europeo Herman Van Rompuy al termine del summit tripartito con le parti sociali. Sentiamo. Since our last meeting in March, much has been done. Dal nostro ultimo meeting a marzo, molto è stato fatto sia dai singoli Stati membri che a livello europeo per uscire dalla crisi. Ora assistiamo ai primi risultati della nostra azione continua e voglio darvi alcuni esempi. I cosiddetti spread stanno diminuendo in modo significativo in quasi tutti i paesi della zona euro. I deficit pubblici sono scesi in molti paesi. La competitività è aumentata in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, solo per citare alcuni paesi. L'andamento dell'export è ora migliore di qualche anno fa. La decisione del Consiglio europeo di giugno di una supervisione bancaria europea comune è stata una tappa fondamentale. Inoltre, alcuni giorni fa abbiamo lanciato il meccanismo di stabilità europeo. Questi primi segnali sono incoraggianti, ma stiamo ancora soffrendo molto per la mancanza di crescita e una disoccupazione in salita. 25 milioni di persone sono disoccupate nell'Unione europea, specialmente giovani, e le previsioni di crescita per il prossimo anno nella zona euro restano molto modeste. E infine, sempre nella giornata di giovedì, ha parlato di Europa anche il ministro dell'economia italiano Vittorio Grilli. La Grecia sicuramente si può salvare, si salverà, ha detto. Il percorso è molto difficile e più duro che da noi, ma non ci sono alternative, lo ha affermato al TG1. Sentiamo. Sicuramente si può salvare e si salverà. È chiaro che anche per loro questo percorso di riforma, di ristrutturazione della propria nazione è un percorso molto difficile, anche più duro, anche sicuramente più duro che da noi. Però non ci sono alternative. All'Unione Europea è stato conferito la scorsa settimana il premio Nobel per la pace. Tra le motivazioni, il Comitato per il Nobel ha evidenziato che è uno dei più prestigiosi riconoscimenti. Viene concesso all'Unione Europea in quanto, da oltre 60 anni, contribuisce a promuovere pace, riconciliazione, democrazia e diritti umani in Europa. Sul fronte economico si può dire che la situazione europea si sta un po' rasserenando dopo le parole di Mario Draghi dei giorni scorsi e il via libera al Fondo Salva Stati ISM. Sentiamo su questo nella posizione del professor Gustavo Piga, economista e docente di politica economica all'Università Tor Vergata di Roma, che al microfono di Sebastiano Barisoni ha anche commentato l'assegnazione del Nobel per la pace all'Unione Europea. Sentiamo. Il fondo ISM non serve a niente fino a quando continuerà, aspetti, fino a quando continuerà a essere gli aiuti che continueranno a essere condizionati all'austerità. Non serve a nulla, perché se lei dà con una mano dà, tra l'altro dà cosa? Da delle cose che forse faranno abbassare gli spread. Il punto chiave è: se scendono i tassi di interesse, le imprese e i consumatori in questo ambiente vogliono spendere e investire di più? Secondo me no, ma certamente se tu gli continui a dire ti do dei fondi, però devi continuare con l'austerità, non se ne esce proprio. Guardi che oggi è stata la notizia che è passata in silenzio, è stato il Nobel dato all'Unione Europea. Nelle motivazioni date all'Unione Europea sono chiarissime. Uno, non l'abbiamo dato all'area dell'euro. Due, lo diamo all'Unione Europea per il processo di democrazia e pace che ha fatto malgrado le politiche economiche fatte adesso. Quindi chiaramente noi dobbiamo dare il Nobel all'economia, all'Unione Europea, e questo non lo possiamo dare adesso, perché stiamo facendo tutto il contrario di quello che noi insegniamo nelle aule universitarie quando c'è una crisi da domanda di questo tipo. Il crimine è farlo in un momento in cui rischiamo di far saltare la cosa più importante che abbiamo fatto dal dopoguerra in poi, cioè quella per cui hanno dato il premio Nobel, l'Unione Europea, il processo di pace. Cioè, lei dice la terapia di tagli è come dire a un malato di mentre si ha dieta, a uno che è già ammalato e ha già problemi suoi peggiori della sua malattia. La dieta la fai quando stai bene, non quando stai male. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.